Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e stimola la riflessione concentrando l'attenzione sugli animali non umani e sulla loro relazione con gli altri esseri viventi. È la puntata numero 574 e parleremo di pipistrelli, di stelle del pop, di iniziative politiche sorprendenti, di orsi. Non mancherà la ricetta della settimana, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che per questa puntata cura anche la musica. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. La rivista internazionale, nel numero 1393, pubblica un lungo articolo uscito sul New York Times a firma David Quammen, il giornalista scientifico, oggi famosissimo, autore di un libro divenuto un bestseller nei lunghi mesi della pandemia da SARS-CoV-2, il libro Spillover, un'inchiesta a vasto raggio, su scala globale, dedicata ai cosiddetti cacciatori di virus, quei ricercatori e scienziati che studiano l'insorgere delle infezioni e le successive epidemie, e in particolare il passaggio dei virus dagli animali selvatici all'uomo, il salto di specie, appunto lo spillover. Nell'articolo di Quammen uscito su Internazionale si parla dei pipistrelli, animali chiave di queste storie, perché sono stati spesso loro la fonte del virus. Anche il SARS-CoV-2, che stiamo conoscendo fin troppo bene, sarebbe passato dai pipistrelli agli umani, forse per il tramite di un'altra specie animale ancora da identificare con certezza, forse il pangolino. È sicuro comunque che c'è uno stretto legame, come dice il titolo dell'articolo di Internazionale, fra virus, pipistrelli e noi. Pipistrelli che fanno peraltro parte della nostra cultura popolare, soprattutto in termini negativi, per le infinite leggende nere che li circondano e che Quammen cita, mettendo tuttavia i puntini sulle i. Non ha senso, dice Quammen, scagliarsi contro di loro, sospettare di loro. I virus dei pipistrelli, scrive, non ci salgono addosso, ci cadono addosso. Non sono loro che vengono a cercarci. In genere il salto di specie si verifica quando noi ci intromettiamo nell'habitat dei pipistrelli, quando andiamo a spalarne il guano per usarlo come fertilizzante, quando li catturiamo, li uccidiamo, o li trasportiamo ancora vivi verso i mercati. Insomma, quando agiamo in modo invadente o distruttivo nei loro confronti. È questo il tema più generale di un modello di sviluppo così distruttivo da avere rotto equilibri ancestrali fra vita selvatica e agenti patogeni, con conseguenze che abbiamo sotto gli occhi e che siamo destinati a subire anche in futuro. D'altro canto, ecco la seconda parte dell'articolo di Quammen, anche i pipistrelli soffrono di questa eccessiva vicinanza con il genere umano, visto che da qualche anno, in particolare, le popolazioni del Nord America sono state colpite dalla cosiddetta sindrome del naso bianco, causata da un fungo proveniente, a quanto pare, dall'Europa. È una catastrofe sanitaria che sta decimando i pipistrelli in vaste zone degli Stati Uniti e del Canada. In questo caso, scrive Quammen, i vettori sono gli esseri umani, i pipistrelli le vittime. Noi umani, conclude il giornalista, siamo un'unica specie, abbondante, formidabile e potente. I pipistrelli sono tante specie, varie, formidabili e vulnerabili. E questo ci carica di una certa responsabilità. Ormai la nostra vita e la nostra salute sono indissolubilmente intrecciate con quelle dei pipistrelli. Dunque, finisce Quammen, se potessimo parlarci e proporgli un armistizio per ritrovare la concordia, suggerirei di cominciare con queste quattro parole. Grazie, senza rancore. Scusate. David Quammen ci richiama quindi alla responsabilità e anche alla conoscenza dei pipistrelli, gli unici mammiferi volanti e di antichissimo lignaggio. Il primo fossile di pipistrello conosciuto risale addirittura a 50 milioni di anni fa. A proposito di conoscenza, c'è una buona notizia che arriva dalle montagne della Guinea, dove è stata scoperta in un sistema di miniere sotterranee in disuso da decenni, nascosto nel cuore del Nimba Range, una specie di pipistrello unica, dal corpo arancione e le ali nere. È la scoperta alla quale sono giunti i ricercatori impegnati fin dal 2018 in studi sulle popolazioni di chirottere in via d'estinzione e che avevano occupato questo singolare ecosistema. La nuova varietà è stata denominata Myotis nimbensis. Il nome è stato scelto in omaggio all'ordine di appartenenza del pipistrello, quello appunto dei Myotis, uno dei più comuni al mondo, con oltre 120 specie in più continenti, nonché dell'habitat nel quale è stato individuato, appunto il Nimba Range. Gli esemplari in questione sono caratterizzati dalla peluria arancione, un aspetto vistoso e non presente negli altri animali della stessa specie presenti nell'area. Nancy Simmons, dirigente di uno degli enti che ha partecipato alla spedizione, la American Museum of Natural History, ha detto di aver capito che si trattava di qualcosa di nuovo fin dal momento in cui ha visto il primo esemplare. La scoperta è stata definita un barlume di speranza in un'era di estinzioni da Winfred Frick, ricercatore dell'Università di Santa Cruz, che ha preso parte alla missione, nonché direttore scientifico della Bat Conservation International. E anche noi vogliamo considerare la scoperta del pipistrello arancione come un barlume di speranza in quest'epoca così cupa. Servants. It's a in Trentino si è riacceso un fronte di forte polemica in merito agli orsi. Punto di partenza una relazione dell'ISPRA, ente pubblico di ricerca competente per la fauna selvatica, redatta in collaborazione con il Museo della Scienza di Trento. Secondo questo rapporto, nei prossimi anni il numero degli orsi in Trentino è destinato a crescere e con esso ad aumentare i casi di orsi cosiddetti problematici, all'incirca un caso all'anno. Il rapporto osserva anche che il recinto del Castellera a Trento, usato come prigione per gli orsi selvatici arrestati in quanto considerati pericolosi, non è adatto alla custodia degli animali, per gli spazi troppo angusti e per la forzata convivenza degli animali stessi. L'ISPRA sostiene quindi che la custodia al Castellera non è sostenibile. ISPRA chiede poi alla provincia una migliore e più trasparente rendicontazione, parole testuali, degli episodi critici, cioè degli incontri fra umani e animali, spesso raccontati in modo approssimativo se non falso, col risultato, dice ISPRA, di esacerbare i conflitti sociali. ISPRA chiede alla provincia una maggiore attenzione alle operazioni di dissuasione, come la rimozione di fonti di cibo vicino alle abitazioni, ma anche, e qui citiamo fra virgolette, azioni reattive su eventuali individui problematici come la dissuasione e, in extremis, la rimozione. Rimozione è un termine ambiguo e a dir poco improprio quando si parla di esseri viventi e tuttavia in che modo vada interpretato lo spiega bene Giulia Zanotelli, assessora provinciale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca della provincia autonoma di Trento. Il rapporto, ha detto Giulia Zanotelli, risulta sostanzialmente in linea con le conclusioni del documento redatto dalla provincia, confermando che la rimozione, mediante abbattimento di determinati soggetti problematici, diventa un'opzione necessaria ed inevitabile. Si tratta quindi, appunto, di abbattimenti. Questa conclusione ha suscitato l'immediata reazione delle associazioni animaliste. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, in una nota si dice perplessa sulla definizione di orsi problematici e contesta che in questo modo possano definirsi M49 e M57, al momento detenuti al Castellera, e oggetto, nemmeno troppo velato, di propositi di abbattimento. Secondo ENPA, ora più che mai, è fondamentale lavorare di più sugli interventi che possono agevolare la convivenza fra la popolazione orsina e gli umani. L'ENPA riconosce la complessità della questione e però aggiunge che tale complessità è legata sicuramente anche a un altro fattore che è quello politico, nella forma di una accentuata ostilità che negli ultimi anni è stata nutrita e ha pesantemente condizionato la presenza di questo grande carnivoro nella provincia autonoma di Trento. È significativo, dice ancora ENPA, che uno dei primi atti della giunta attuale sia stata l'interruzione di quella importante progettualità di mitigazione di conflitti fra orsi e attività dell'uomo che poteva continuare ad esercitare una funzione estremamente utile. Proprio questo punto, la relazione fra società umane e animali selvatici, è un grande tema del nostro tempo, come abbiamo visto anche parlando dei pipistrelli. Un tema affrontato più per slogan e sull'onda delle emozioni e degli interessi politici del momento che attraverso argomenti razionali e con uno sguardo allargato e una profondità di tempo adeguata, proiettandosi nel futuro. Un futuro che deve essere necessariamente di convivenza e di adeguata tutela degli habitat selvatici, la cui presenza e preservazione è una necessità anche per la salvaguardia della salute umana. Quanto agli orsi, il presidente dell'associazione animalista OIPA, Massimo Comparotto, ha commentato le parole dell'assessora Zanotelli dicendo che siamo all'ennesima dichiarazione di guerra alla fauna di un'amministrazione che non interviene per una serena convivenza. Le affermazioni dell'assessora si commentano da sé. È l'autodenuncia della mala gestione della provincia di Trento, che probabilmente per meri motivi elettorali ha deciso di gestire il progetto Life Ursus, finanziato dall'Unione Europea a colpi di mandati di cattura degli orsi e persino di abbattimenti, come nel caso di JJ4. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking it I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from Nelle scorse settimane abbiamo parlato della campagna internazionale Veganuary, che propone, almeno per il primo mese dell'anno, l'adozione di una dieta su base vegetale, nell'intento di spingere il più alto numero possibile di persone a cambiare il proprio regime alimentare, producendo i noti benefici per la salute personale, per l'ambiente e anche per la filosofia di vita in generale, imperniata sulla condivisione e la fratellanza anziché sull'egoismo e la sopraffazione. Perché in fondo il modo di alimentarsi è un segnale del proprio rapporto con gli altri esseri viventi. Fra i personaggi famosi, testimoni di questa campagna, c'è anche l'ex Beatle Paul McCartney, non nuovo a simili impegni pubblici. Gennaio è ormai finito, ma ci sono altri modi per proseguire l'impegno. Uno di questi è la campagna Meat Free Monday, lunedì senza carne, anch'essa sostenuta dal baronetto di Liverpool. In questa veste McCartney ha scritto una lettera ad Alberto Fernandez, presidente dello Stato dell'Argentina, uno dei maggiori produttori mondiali di carne, e gli ha scritto per ricordargli il grave impatto ambientale dell'allevamento di animali e dei consumi di carne e derivati. I numeri dicono che nel 2019 l'export di carne bovina dall'Argentina è stata di 845.000 tonnellate, il maggior volume degli ultimi 50 anni. Il 75% di queste esportazioni è stato assorbito dalla Cina e il fatturato del 2019 di questo comparto ha superato i 3 miliardi di dollari. Sono cifre impressionanti, con una tendenza all'aumento opposta a quella che sarebbe necessaria, una diminuzione. È difficile, insomma, che le parole di McCartney possano spingere il presidente argentino a cambiare rotta, ma aiutano a capire qual è la dimensione anche politica del problema. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. A proposito di politica, negli ultimi tempi Emmanuel Macron, l'ex banchiere, oggi presidente francese, sta cercando di assumere un nuovo profilo politico, diciamo più corsaro. Per esempio a Davos, in Svizzera, al Forum dei Potenti della Terra, ha criticato addirittura il sistema economico globale, con toni inconsueti per un capo di Stato e con la sua storia, tutta interna al capitalismo neoliberale globalizzato. Paradossi del marketing politico, evidentemente. E chissà se fa parte di questa nuova strategia, in vista delle prossime elezioni, anche la presa di posizione del suo partito, Repubblica en Marche, che nei giorni scorsi ha presentato un progetto di legge contro i maltrattamenti animali. La nuova legge propone un sistema innovativo, un certificato di conoscenza da chiedere a chiunque voglia prendere per la prima volta un animale da compagnia, in modo da ridurre le scelte impulsive e le successive sofferenze inflitte agli animali. La legge prevede anche pene più severe per chi si rende responsabile di sevizie verso gli animali. La proposta, presentata dalla deputata Aurore Berger, si occupa anche dei circhi, con il divieto di usare animali, e dei parchi acquatici, che dovranno rinunciare a delfini e orche. E per dire del clima che si vive in Francia in questo periodo, in anticipo sull'approvazione della legge, il Parc Asterix di Parigi, molto conosciuto e molto frequentato, ha deciso di chiudere il suo delfinario, da anni oggetto di proteste degli animalisti. Qualcosa, insomma, si sta muovendo. E dobbiamo anche considerare che dal 2015, nel codice francese, gli animali sono considerati esseri viventi dotati di sensibilità e non più beni mobili, oggetto possibile di proprietà privata. Vedremo se la legge della deputata Aurore Berger di Repubblica en Marche sarà approvata e se Macron avrà il coraggio di andare anche oltre, occupandosi per esempio di allevamenti e caccia, temi ben più impegnativi, politicamente parlando, di maltrattamenti, circhi e delfinari. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. Yeah, I wish I was special. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, anche questa settimana ha ideato per noi una ricetta dedicata a uno dei temi trattati nella puntata. La sua infinita creatività può essere ripercorsa attraverso il nostro sito restiamoanimali.it o comprando il suo ultimo libro, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Slowly he got juju eyeball, he won holy roller, he got hair down to his knee, got to be a joker, he just do what he please, come together. La cultura pop senza i Beatles sarebbe un po' come la cucina toscana senza il pepe e l'olio buono, tanto che anche Troisi e Benigni li hanno voluti citare in quel capolavoro di Non ci resta che piangere. Noi vogliamo dedicare a Paul McCartney la ricetta di oggi, perché il baronetto di Liverpool, oltre ad indimenticabili canzoni, ci sta ispirando anche col suo impegno antispecista. E dal brano realizzato nel 1982 assieme all'amico Stevie Wonder, il nome del piatto. Gli ingredienti per 4 persone per l'Ebony and Ivory sono 300 ml di latte di mandorle, 30 g di amido di mais, 100 g di zucchero di canna chiaro, un pizzico di sale, della vaniglia, 100 g di biscotti vegan tipo Digestive, 30 g di olio di cocco, 100 g di cioccolato fondente, 80 ml di acqua, 40 g di zucchero di canna e un cucchiaio di mandorle a scaglie. Tritate i biscotti con un mixer e mescolateli assieme all'olio di cocco precedentemente ammorbidito. Foderate uno stampo rettangolare con della carta forno e disponete l'impasto di biscotti sul fondo, schiacciando bene con un cucchiaio. Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo fate sciogliere l'amido di mais nel latte di mandorle. Aggiungete lo zucchero di canna chiaro, un pizzico di sale e la vaniglia e mettete sul fuoco mescolando con una frusta. Quando il composto arriverà ad ebollizione, l'amido inizierà ad addensare. Mescolate per un paio di minuti, quindi togliete dal fuoco e versate nello stampo sopra la base dei biscotti. Lasciate intiepidire, poi mettete in frigorifero per un'ora. A parte unite i 40 g di zucchero di canna assieme all'acqua e portate ad ebollizione. Aggiungete il cioccolato fondente e lasciate ritirare per un paio di minuti, quindi lasciate raffreddare. Trascorso il tempo necessario, togliete il dolce dallo stampo e coprite con la salsa al cioccolato, decorando con delle mandorle a scaglie. Na, na, na. Concludiamo segnalandovi un libro appena uscito, ma già recensito sulle pagine del Corriere della Sera da Luca Zanini. L'ha scritto il biologo Josef Reykolf, si intitola Scoiattoli & Company, lo ha pubblicato Aboca Edizioni. Gli scoiattoli, secondo l'autore, possono indicarci la strada verso quella natura vivente dalla quale, nel mondo virtuale, ci stiamo allontanando sempre di più. Ne riparleremo. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Anna Granata, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.